La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato a Pietro Nenni, uomo che per oltre mezzo secolo ha rappresentato la storia e gli ideali del socialismo e del Partito Socialista Italiano. Ospite ai nostri microfoni Giuseppe Tamburrano, presidente della Fondazione Nenni. Per oltre mezzo secolo ha rappresentato la storia e gli ideali del socialismo del Partito Socialista Italiano. Uomo di forti e autentiche passioni politiche e civili, Pietro Nenni è stato uno dei protagonisti della vita politica italiana per buona parte del Novecento. Martedì scorso la Fondazione della Camera, presieduta da Fausto Bertinotti, ha promosso un incontro proprio per ricordarne la figura a 30 anni dalla scomparsa, alla presenza del capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Fini lo ha ricordato così. Desidero solo rilevare che il leader socialista agì nella fase più forte e drammatica del cosiddetto secolo breve, inteso come il secolo dell'ideologia, e quindi come un'epoca in cui le ansie di libertà e di modernizzazione, laddove erano realmente avvertite, dovevano spesso compiere un cammino di affermazione tortuoso e contraddittorio, costellato da mitologie ingombranti e teorie astratte quanto negative. Vale la pena citare quanto scrisse nel suo ultimo articolo. La vita stava per abbandonarlo. Ciò nonostante, invitò ad affrontare le sfide del nuovo decennio che si stava per aprire. Gli anni Ottanta, scrisse, saranno decisivi. Tutto è in questione. Tutto è posto di fronte all'alternativa tra rinnovarsi o perire. Nel 1934 vengono avviati contatti fra il PSI e il Partito Comunista d'Italia, che si concludono con la firma del primo patto di unità d'azione in difesa delle libertà democratiche. Uniti nella lotta antifascista, nella consapevolezza, come scrisse Nenni in diversi articoli, che le epurazioni che nel frattempo Stalin stava mettendo in atto in Unione Sovietica contro i suoi oppositori non dovessero in alcun modo minacciare l'unità di azione contro il comune nemico. Nel 1939, in seguito alla firma del patto di non aggressione tra Stalin e Hitler, Nenni scrive un articolo dal titolo «Il voltafaccia della politica sovietica». La direzione del PSI è di tutt'altra opinione. Nenni è costretto a lasciare la segreteria del partito, la direzione del giornale e la rappresentanza dell'Internazionale. Collabora con i giornali della Svizzera italiana e francese e, per l'interessamento di Luigi Antonini, col New York Post. L'8 febbraio del 1943 Nenni viene arrestato dalla Gestapo. Rinchiuso nel carcere parigino di Fresnes, vi rimane circa un mese e il 5 aprile viene consegnato alla polizia fascista al Brennero. Trasferito a Regina Coeli, viene successivamente confinato a Ponza, dove rimane fin dopo il 25 luglio. Subito dopo la liberazione, in seguito alle dimissioni del governo Bonomi, Ferruccio Parri viene nominato capo di un governo di coalizione dei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale. Nenni è uno dei due vicepresidenti del Consiglio e ministro per la Costituente. Assume anche l'incarico di alto commissario per le sanzioni contro il fascismo. Il referendum popolare segna la vittoria della Repubblica. Il Partito Socialista è il primo partito della sinistra. Il 18 ottobre Nenni entra a Palazzo Chigi come ministro degli esteri, carica che ricoprirà fino al gennaio del 1947. Il 25esimo congresso del Partito Socialista, che ha luogo a Roma a Palazzo Barberini nel gennaio del 1947, si chiude con la scissione. Un anno dopo, il 18 aprile del 1948, il fronte che unisce socialisti e comunisti esce nettamente sconfitto dalle elezioni che decretano la vittoria della DC. Tra il 1952 e il 1953, Nenni è protagonista della battaglia in Parlamento contro la riforma elettorale, la cosiddetta legge truffa. Prendono avvio i contatti tra socialisti e democristiani proprio mentre il mondo viene a conoscenza dei crimini commessi da Stalin. L'invasione dell'Ungheria da parte dell'Armata Rossa segna la rottura tra socialisti e comunisti. Comincia la stagione dei governi di centrosinistra è il 1962 ed è proprio Pietro Nenni ad annunciare alla Camera l'astensione socialista nei confronti di Fanfani e del governo delle convergenze parallele. Nel dicembre del 1963 nasce il primo governo organico del centro-sinistra con Aldo Moro presidente del Consiglio e Pietro Nenni vicepresidente. Sull'accordo di governo con la Democrazia Cristiana si consuma la rottura con la sinistra del Partito Socialista. Nenni continua a battersi per l'obiettivo dell'unificazione socialista che si realizza nel 1966, per poi fallire 3 anni dopo. In seguito alla scissione, Nenni dà le dimissioni da presidente del partito e da ministro degli esteri. Il 25 novembre del 1970 viene nominato senatore a vita. E ora siamo, in questa ricostruzione, al 1976. Al comitato centrale del Partito Socialista, i giovani quarantenni appoggiati da Nenni, Lombardi e Mancini esautorano De Martino e nominano segretario del partito Bettino Craxi. Il 1 gennaio del 1980, alle 3:20 del mattino, Nenni si spegne nella sua casa di Piazza Adriana a 89 anni. Abbiamo in linea lo storico Giuseppe Tamburrano, presidente della Fondazione Nenni. Professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a lei per avermelo rivolto. Allora, l'incontro di martedì scorso alla Camera è servito a rievocare la figura di questo grande uomo politico socialista che ha segnato con la sua azione, il suo pensiero, buona parte del secolo scorso, come hanno osservato e ricordato sia il presidente Fini che il presidente Bertinotti. Lei, professor Tamburrano, ha ricordato anche alcuni aspetti, diciamo, più personali della vita di Nenni, come ad esempio quando da bambino lo stesso Nenni maturò la sua decisione di aderire agli ideali socialisti. Ce la vuole raccontare, professore? Sì, tutti i socialisti sono repubblicani. Repubblicani, esatto. Repubblicano fino all'età di circa 30 anni. E Nenni era figlio di una padre, perse il padre presto, insomma, viveva nelle ristrettezze e passò la sua infanzia nel triste orfanotrofio e lui scrisse: mi è mancata la scuola della strada. E un giorno, c'aveva quasi otto anni, vide sulla piazza di Faenza, assisté a una scena terribile, cioè la cavalleria, la polizia a cavallo, i carabinieri che caricano una folla fatta soprattutto di donne che avevano i grembiuli bianchi di farina e venivano da un assalto al forno. Era appunto il 1898, il triste anno dei moti per la fame che si conclusero tragicamente con centinaia di morti a Milano. E lui ha assistito, ha scritto impietrito e ricorda che dentro di sé fece la sua scelta, conquistare. Quindi c'è un altro particolare molto bello, che quando torna dall'esilio da Ponza, dove incrocia Mussolini, lui torna in Italia libero, Mussolini è lì prigioniero, la prima cosa che fa, va a Faenza e, per giurare, dice, a quel monello nelle viuzze in cui appunto lui ha cominciato a fare il ribelle, che era sempre lo stesso, che non aveva rinunciato a quegli ideali. Professore, se fosse possibile tratteggiare alcuni elementi essenziali della lunga militanza politica, ma anche dal punto di vista dell'impegno che Pietro Nenni dispiegò per molti anni, 70 anni nella sua lunga vita. E anche di più, se pensi che aveva 8 anni. Anche di più. Anche di più, certo, perché poi è morto alla fine degli 80 anni, cioè sono più di 80 anni. Ecco, quali sono i caratteri salienti dell'impegno di Nenni e quanto dell'insegnamento di Pietro Nenni è oggi ancora vivo e vitale? I caratteri salienti del Nenni, prima repubblicano e poi socialisti, sono intanto la battaglia per la Repubblica, che era la battaglia fondamentale nella sua vita, e egli la fece con tale impegno, anche rinunciando a cose importanti pur di far presto, perché come disse, la conquista della Repubblica era una corsa con l'orologio, perché ogni giorno che passava in quel clima prima ardente della liberazione e poi sempre più condizionato dalle forze conservatrici, lo spostamento dagli ideali repubblicani di sinistra verso le scelte moderate, si pensa all'influenza della Chiesa, si faceva sempre più pesante. E allora lui voleva far presto perché quello che chiamava il vento del nord si affievoliva. E così abbiamo la Repubblica, io credo, come ha scritto Silone, direttore dell'Avanti, grazie a Nenni, per cui io protesto quando dicono uno dei padri, io dico no, è il padre della Repubblica. Questo è stato il suo primo impegno. Naturalmente la Repubblica non era solo una forma istituzionale, era per lui anche sostanza, e quindi la sua lotta per i diritti dei lavoratori. Poco tempo prima di morire disse: quando muoio vorrei che i lavoratori dicessero che è morto uno di noi, uno come noi, uno che si è sempre battuto per noi. Dunque, e quindi questo è il socialismo di Pietro Nenni. E nella sua vita, oltre alla Repubblica, ha contribuito in modo determinante alla nascita del centro-sinistra, alla sua collaborazione con Moro. Soprattutto i primi anni del centro-sinistra sono stati, a mio parere, gli anni più importanti della storia unitaria d'Italia, la storia dell'Italia unita, dopo gli anni del riformismo giolittiano. Professore, grazie. La ringrazio molto per il suo intervento. E sono io che ringrazio lei.